avanti. Vabbè Gianni. Ciao a tutti. E allora, poco fa non c'è nessuno, cazzo. Io ce l'ho acceso già una quindicina di minuti. Stavo ascoltando la ricevitore e poi acceso. C'era di propagazione sul PTC. Come forte arrivavano. Esatto, ci commesso. Poi avanti chi c'è su Pici, è entrato una pure la musica, due tre volte, tre piede la luce, ho preso tutto tutto. Cava cava. E Mattacchino non c'è. Chi? Mattacchino. Attalino? No. Oh, non ho sentito nessuno stasera. Come lo chiami tu, Tattalino? No, io lo chiamo Tattalino. Tattalino. Ma è in modo confidenziale. Tanto bene. Niente, stamattina ho fatto un po' di passi veloci e spinti. Hai fatto tutto? Sono andato al piano, sì. Ho fatto sia il piano zero, medicina urgente, e ti avevo raccontato che se trovavamo prima delle 23, c'è il medico legale. Sì, faccio una schiamata, quello per l'altro, se non mi mando niente al settimo piano. Poi ho detto, ma comunque, ho preso il ritardo al settimo piano. Ho portato la sia e poi fanno scarica Parini. Comunque adesso gli mando le mie, voglio vedere, detto quando le posso chiamare per avere un esito positivo almeno per questa cartella clinica. Allora andiamo giovedì, no, mi chiamo mercoledì, che se tutto va bene, chiedevamo già. Ma che giù mi hanno detto, uguale, facciamo tutto come, non c'è problema, arriviamo subito. E tu ho parlato quanto, ma ha deciso, mi ha detto, gli faccio questa eccezione, dopo il prima, che ho l'appuntamento, io lo rifunziono. Beh, te l'hanno dato. Noni, se lo devo avere in corso PMI, devo avere. Dal piano zero, piano terra, poi viene a finire al settimo piano, che è tutto lo stesso apparato, quello reale, sono già questa quella burocrazia che deve mandare le mie, ma carizzai, casino è. Ah, si mandano le mie invece di salire su e comunicarmelo, boh. Bravo, sì, esatto. Quelli giù mai tu, sono quelle cacca, forse l'ha chiamato. E la telefono direttamente e poi invece non ha telefonato niente perché io sono salito sotto, l'ho saltato perché a fare l'ascensore di Piero. E niente, ce l'ho mai chiamato nessuno, penso un po', comunque, adesso dice adesso che lo mando io il mio, insomma. Se sono venuto qua, perché ho questa urgenza, che ho avuto l'incidente, tutto è spiegato, ho detto guarda, mi ha fatto un grande favore, si è operato tutto quanto. Ha visto il fuggi, sì, no, non c'è problema. Un buono che ho trovato, speriamo che giovedì, al massimo per il rimeredano, sta tenendo a cartella, ragazzi. Così non le diva tenere il medico fiscale tutto quanto, c'è il medico legale. Speriamo, io te lo auguro, invece a me mi hanno chiamato dall'ospedale, lo sa. Per che cosa? Per recuperarmi di nuovo, per fare la fisioterapia. Mi hanno detto che non ci andavo. Volevano che mi ricoverassi altri 13 giorni. Che capita? Cos'è? Lo sto già camminando e me lo sto facendo io. L'ho detto così, si è detto bravo. Oh, io sento, l'ho sentito. Anche io, avanti, ora. Mi è sembrato Mirko di Alghero. Mirko, tu sei? No, forse no. La voce era di Mirko. O di Eugenio, può essere. No, Mirko. Ma deve essere qualcuno che gli assomiglia, non lo so. E anche io stamattina a Torino ho dovuto fare chilometri a piedi per carizzare. Ho dovuto mettere la macchina di fronte a quel bar che c'è dove abita Alice, lì. C'è quel caseggiato dove c'era il casino prima, l'avevo messa lì dentro perché era tutto di vietto. Poi me l'ho dovuta fare da lì a piedi sino al culo. Lo so, facevo anche così. Io perché te l'ho preso la macchina, però la provincia mi sono accorti per quel motivo. Sì. Cosa volevo dirti? Non me la metto più in catena. Sono più affaccinato, se mi cade lì. Cervello che abbiamo, guarda, con tante cose che in due magazzini, poi adesso dico questa Gianni, poi invece pestisce il capo. Forse mi volevi dire della serrata, qualcosa della serrata? No, però faccio con calma domani, Vengo con un fatto, non so, devo un attimino a farlo già. Tu vedi quanto ci metto, una cazzata. Lo so. Cappa, cosa mi dovevi dire? Boh. E comunque per me è stato è stata proprio una dura prova fare, sembra così tu lì, però quando non stai bene fare quella strada lì me l'avrei fatta scioltezza, ma quando non stai bene sono arrivato stanco morto, me l'ho fatta correndo perché era già tardi, io sono partito mezz'ora prima, sono arrivato, solo che non avevo calcolato che oggi c'era anche il mercatino. Oggi lo dite dopo si pianta le segni e c'è il caos proprio. Sì, ma in effetti è così, già, io ripeto, per andare a Conti andavamo a tirare presto, sì, sei e mezzo. Mi proteggiamo, anche il mio telefono, andavo su Facebook, giocavo su sparamolle, insomma, voglio ascoltare la radio, insomma, cosa faccio? Mi inclinavo pure sinistra perché mi veniva questa solenza, mi chiedevo sportezza all'interno, mi faccio, io sono il peggiolino, cadevo che l'ha giocato qua. Bene, io sono quasi l'amico che andavo là, comunque. Meno male che la cosa già è finita. E niente, comunque. Niente, ho detto avvocato, scusi, ma se mi ha chiamato, ti ha chiamato il medico fiscale a portare il sacco, medico, cacchio si chiama, legale, se l'ha chiamata per questi documenti qua, vuol dire cosa si sta parlando. Speriamo che ti diano tutto in tempo, perché se no è un casino, se non coincidono le cose. Io mi sono fatto coincidere le cose, la lastra con la visita che ce l'ho domani. Meno male, perché erano, se non c'avevi la lastra, la visita non la potevi fare, quindi era un casino. Beh, certo. Io quando vado a farmi la visita cardiologica o anche per altre cose, però c'è per la vecchia da portare, capito? Sono loro cosa scrivo, quello che non esiste a voce, ma loro devo vedere. Sì, purtroppo così. Cosa volevo dirti? Beh, giustamente se lui aveva dichiarato, allora lui ho capito una cosa, che lui ha dichiarato la sua assicurazione è passato col rosso. E quello ciò che ha scritto nel messaggio a me. Poi, un secondo tempo, alla polizia municipale ha dichiarato che lui è passato col verde, però prendersi la multa e gli otto punti, hai capito? E revisione patente. Perché se no il medico fiscale non mi avrebbe neanche chiamato, cioè il medico legale. Vedete che il suo medico fiscale io, che è pettina. Il medico legale manco ti avrebbe chiamato già. Ma visto che ti ho messo l'avvocato, capito? C'è la lettera dell'avvocato, ti hanno chiamato per quello, per verificare se veritiera la roba. C'è stato l'avvocato, alla sua solita, guarda che io ho anche una prova fondamentale che se andiamo al tribunale costa molto di più, eh. E inchioda il personaggio e passa per via legale e poi sono affari suoi. E a voi vi costa molto di più. Senz'altro gli avrò accennato, non vi dico cos'è, ma lo dirà il giudice direttamente. Io penso che poi alla fine ho dichiarato lui la verità alla circolazione. Lui ha detto a me che aveva dichiarato che è passato con rosso, un rosso sbagliato, un verde sbagliato, la parece, sbagliato è lui che ha sbagliato, non è il rosso sbagliato, il rosso era rosso, è lui che ha sbagliato a passare con rosso. E poi la polizia municipale, ma è tu, il sole, qua e ascolti. Siccome io sa se la porto con le tasche mie, se noi dobbiamo Petronica, se a me il sole mi dà negli occhi non vedo il semaforo, io guardo quello di sinistra, perché se ricordi bene che in quella via ci sono due semafori, uno per girare a sinistra e uno a destra, quindi ti può bagliare quello di destra, ma quello di sinistra non ti baglia, sono tutti due rossi. Ti faccio arrestare tutti. Mi signore, mi. Tutti vi faccio arrestare. A te ti faccio, ti crepo tutte le bollicine che c'hai. Hai capito? Sei per magnetico Emanuele. Sei un cuoco, ma è questo Emanuele. Beh, tutti a pizzoli si scende di righetti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao Cicò. Buonasera Gianni, Tonino, Emanuele, non so chi altro ci sia. Natalino Alfa 1 qua, canale 10, K. Ciao Natalino Alfa 1, qui da questa parte Torino Cavazzanti. K, ciao Tonino, ben sentito. Gianni ti ha fatto una piccola affermazione. Sì, lo sappiamo, è fatto Gianni, lo sappiamo. Cos'è, l'hai fatto per te? Ti ho detto se ti era piaciuta quella cosa che ti ho mandato. Eia, eia. Già l'ho vista, l'ho vista. Una bomba, però è bene anche con l'antenna del coso, del tetto. Quello lì devi metterti un'antenna come quella che ho io, sotto l'antenna che hai. Ed è una bomba veramente. Non ne voglio mettere altre antenne, già sento bene così uguale, sento benissimo. Tony, aspetta che te lo mando. Sì, io. Questo messaggio è strano. Ciao, sono un volontario per la Chiesa di Gesù Cristo come volontario. Svolgo molti servizi e nessuno è insegnare inglese gratuitamente. Grazie a te. A di amore c'è 15. Dove abiti tu? Si chiama English Concept. Ti interessa? Gianni, ti risulta? No, Natali comunque. Devono essere i mormoni, perché quelli sono americani, insegnano l'inglese. Nella vita. Ma a me questa età cosa mi interessa l'inglese? Oh, vabbè, fa sempre piacere se sapere l'inglese. Ormai la mente mia è mezzo fusa. Ah, l'ha ritirato allora. Oh Gianni. Ehi, a Turi, lo sto usando con la canna del tetto, senti come si sente bene. È coppiato. Sì, siete bene. Oh già. Turi. Oh già. Ehi, a. Ma ti risulta che nella via tua c'è questo qua che impara l'inglese, roba della chiesa? Che parla l'inglese davanti alla chiesa? Ah, i mormoni sono quelli che si parlano in americano, sono americano. Che mi vuole imparare l'inglese gratis, se mi interessa, ma scrivi un messaggio. Sì, tu gli fanno le lezioni di inglese, sì, perché sono americani, dai. Ma mi sa che mi scrivo anch'io, così ci fatturiamo l'inglese. Ma cosa, sono come suore, sono tutti 19 anni, 20 anni, le mormore che fanno seminario, dai. Però Tony, quello lì è quello che ci vuole a te, quello lì è facile da usare e non devi fare niente di cosa, c'è sintonia continua, bellissimo. Vabbè, adesso ho altri progetti in testa, già, poi più là vediamo. Allora l'antenna dalla me, dai, che me la uso io. L'antenna dalla me, è proprio quella cosa, un po' di battato lo vuoi. Non sai che stamattina, quando sono uscito a studiare, sono andato, e via, che viene, proprio lì. Allora, via Reato, non via Reato, proprio. Che cavolo che c'è se in piazza Autorruglio praticamente. Via, porca miseria. C'è stamattina, comunque, sono andato da Ultimo, che c'è Tamara, che la conosco, lo faccio un bel panino croccante con la forchetta. Avevo la fame già, mi la mangiato con un cuore così buono sto panino. E era il telefono con Emanuele. E dice, mi mette le magnetti. Lamento lo sta dicendo. L'avviamento autori di Piazza Santa Lucia c'è un'altra, e c'è quelle cose che il caffè fa pizzati buoni e gira a destra, quella è via. Ah, quella è, sì, ho capito, però me lo ricordo, dove c'è l'isola che non c'è. Turati. Via Turati, bravo, bravissimo, ciao Carlo. Esatto, ciao Carlo. Per bisogna magna. No, guarda, ero digiuno, veramente c'avevo una fame, cioè a portare a fare alcune cose per i documenti che devo ritirare da una parte all'altra, insomma, alla fine quando sono andato via, questo piccolo mormorino, non so, ma come ho detto, ci vado da Ultimo, là, che c'è un'amica mia che io una vita quando faccio tutte le scuole lavoravo, andavo da lì per il panino e io ci parlando e mi ha detto, anzi sta bene, peggiore, ma non ti credere, sto lavorando, poi l'ho salutato e ho detto, ciao, stammi bene e buon lavoro, è lì, ma che te, ma cosa mi ha fatto dire, che tu sei già in pensione, che ti invidio? Non credo, perché di questi tempi beato a chi ci può stare in pensione. E chi ci arriva pure, perché quello è vero. Ciao Carlo. Ciao Gianni. No, lui è Natalino. Ma Natalino, ma c'è anche Gianni. Sì. Natalino, e lui avevo sentito. Non lascio la pezzella. A voi ci ha parlato in 30. Gianni, vedi, non rilascio l'alfabeta, boh. E a che ora c'è qui c'è chissà cosa. E allora. Manuele, sono Cingoma, manco chi tu hai più bu. Eccomi, sono qua, era al telefono. È dottor Carlo. Ciao Carlo, mi hai sentito, buonasera. Ciao, ti ho sentito prima e poi, infatti, ho sentito l'intervento dove c'era Natalino e mi sono confuso. Cappa, perché ti ho mandato una cosa a Carlo? Lo sto vedendo, è bellino, compatto. Si sente anche bene, con l'antenna del tetto, che sul tetto ascolto bene. Ascolta, e cosa gli hai attaccato qua l'antenna CB? K. Vicese. Non ne sentite? Certo, ma pensavo avessi messo un discone, qualcosa del genere. No. La un'antenna che c'ho, la levo. Io ce l'ho di scopo. Capito, bellino. Cos'è? Ma aspetta che mi guardo la maschera. Non la vedo da qua, dai. Male in Hong Kong, ci ha messo un po' a arrivare. Doveva arrivare prima di Natale, invece è arrivato oggi. Anche digitale? Sì, è digitale, c'ha la pennina per digitare, per non sporcarlo, c'ha la pennina. Ho capito, perché adesso ce ne sono, ne stanno facendo di ricevitori che oltre l'analogico ricevono anche i segnali digitali tipo DMR o segnali quelli moto della Motorola, insomma, e altri, capito, e altri. E poi puoi ricevere anche in diretta qualcosa di decriptato ancora. Questo praticamente diciamo che è un bel apparecchio. Non pensavo che ricevesse così bene qua. Infatti sono a corso da non mettere altre antenne, perché tanto ricevo con quella bene. Scusate, Gianni, Natalino e Carlo. Vi ho mandato una foto che mi ha mandato Manuele, ecco perché non mi ha risposto. Caspita lì, panini croccanti con roba buona. Ecco perché non mi rispondeva poco fa, hai capito? Manuele, mi hai trovato stamattina, sono andato alla dottoressa, peso 110 kg e adesso si continua da magna. Comunque vi dico un altro segreto di Gianni Doppio Rum. E lui mi ha detto queste testuali parole, e molto molto volte io mi assento. E poi dietro dico, era al telefono, non è vero? Si stava mangiando le frizze e bomboloni. Natali, mettili in riga. Non ho voglia di mettere in riga nessuno. Domani devo andare a fare un esame a Frattaona. Gira gira mi porto la canna da pesca. E i bomboloni no? E i bomboloni me li prendo al bar. Me ne mangio due alla faccia di Gianni. Vedi già. Ma noi è inutile che mandi la risata, entra in frequenza, se mi mangi niente, il mare di buco, se nel movimento ce li hai. Io non accetto provocazioni. Dai, fa uno per il bene, fa una cosa, va fino a farsi la protonella, tu vai a fare Natalino e mangiati i cannelloni. E domenica c'era di tutto, c'erano anche cannoncini col coso verde, come si chiama? Ma non mi viene. E comunque c'erano la crema, c'erano tanti muri. Poi c'erano le paste, quelle fatte con la frutta e col gel, e oltre ai cannoncini c'erano le ciabatte, di tutto di più. Pistacchio. E al pistacchio non mi veniva il nome. Sempre a mangiare penso. E ora che una entra dice, intanto uno si piacerà, qui che parola, baracchino che parola, queste cose buone, per me sono tutti quanti cicciotti. Oggi ti ho pensato, mi sono andato a fare la spesa, ti ho visto il profitero, ho detto mi lavi diritto lì, noi. Ma vedi, il profitero, no. Non sto più comprando già, dai, che lo so che fa bene. Adesso me li faccio, io li so fare. Spontaneamente al suo incarico, diciamo. E con tutto che le aveva detto che era tanto che non le mangiava, mi è venuto a mettere di prendere, ho detto no, non le prendo, fanno male, e le ho lasciate dov'era. Adesso li faccio, i profiterol, tanto li so fare io. Ho imparato a mia moglie a fare il tiramisù pure. Allora tutti quanti quando... Vedi, quando fa il tiramisù avvisa. Quando le ha fatte tutti quanti andiamo a Natalino a mangiucchiare. Ragazzi. Ci dà la ricetta buona del tiramisù Natalino. Ehi, dico tu assai mia fare il tiramisù. Me l'ho insegnato a fare a mia moglie, gli esce al bacio pure. A Torino ne ha bisogno. E perché? Così. Io mi scopri da proteggere super succio con la caduccia. Allo su. Quanto siete moriti. Mettete in malizia, gà. Io queste cose non le faccio, gà. Io dolci non le mangio né chi uno. Le guardo soltanto e mi sazio. No, e sempre con questi dolci ce l'avete. Mi state facendo un mio baccacco con questi dolci. Io non ci penso, gà, mi fate pensare voi. Guarda già, a parte scherzi. Chi c'è in ascolto? Li fate venire di a me. Minimo. 27 di sintetica ormai. Ci avranno le palle a terra. Ascolta, sempre queste cose. Comunque, Patrizio, ti panico tutta stamattina, io ho viaturato e era troppo buono già. Veramente, l'ho mangiato con libero cuore di gusto, era bello saporito, perché guardavo la vetrina, ma cosa ci mettiamo? E poi mettere della porchetta. Era così bella, ma così buono saporito il panino, che caldo, tu ci credi. Non c'era prezzo per pagarlo. Al posto della porchetta ci aveva messo la mortadella, io a me la porchetta non mi piace. No, la porchetta è quella rosso che è buona, cavolo, c'è un rotolone, bella, bella, bella, bella saporita, buona, e poi la mortadella, ce lo sai, a lui non è che ci fa tanto bene, invece la porchetta fa bene, quella ti tira sull'animo. Ma... la porchetta, io stavo pensando la testa in cassetta, tu. No, testa in cassetta non la faccio, assolutamente. E dirò, siccome sono arrivato talmente contento, io mi faccio un salto, me ne faccio un altro. Non ci credo. Dopo di svallarsi, ma te l'immagini questo Tonino? La sta lì. Poi dice agli altri, e poi quando è da sola la rua, ma che ce ne manda calze. Sì, ma poi non è mai come ti... i popoloni che mangi tu più di crema a me. Ma io le mangio una volta ogni volta ogni pappa, non le mangio spesso. Il panino te l'hai fatto anche l'altro giorno, in più ti copre il profiterol, i gelati, e chi più ne ha più ne metta. E da poi ti allassi, guarda chi... A te non mi ha dato la foto ieri che cosa mi sono fatto, che non c'avevo fame. Non me lo riconosco. Ricorditi, era marmellata, messo in forno. Ah, è vero, è vero. Sì, il croissant si è fatto ieri. Si è comprato il croissant, quelli che sono da lievitare, che c'era una lievitazione bloccata. Se l'ha messo in forno, capito, il signore. Si l'ha fatti bene di ingrossare, bene, e poi si l'ha mangiato tutte e tre. E c'è una marmellata. Non gli manco più, ripiso. Certo, marmellata. Mi ho ancora altre 3-4 e poi come finisco quelle lì, un domani vado di nuovo e me ne compro una decina. Sono di quelli congelati? Yes, congelati. Sono un po' piccoli, poi quando metti in forno già si ingrandiscono loro. Oh, yeah. Carlo, se li vuoi fare in casellana? Io quelli li mangio anche all'aeroporto. Li fanno vuoti e poi se vuoi ti riempiono marmellata oppure crema oppure cioccolato, capito? Come li vuoi te li fanno, ma giusto per buttare dentro qualcosa la mattina, perché quando esco di casa sono le 4:20, 4:30 la mattina e quindi bevo solo il caffè, a volte non ce la faccio neanche a prendere quello perché ti lavi, ti vesti velocemente ed esci. Prima di andare al bar però si fanno le 7, dopo che imbarchiamo i primi voli, capito? E lo sai come ci scendono quei cosi, a volte me ne mangio anche due. Un attimo, Carlo, allora ti devo fare una bella domanda da un milione di dollari, dato che tu hai detto questa cosa qui, allora siccome tu lavori lì, ti chiedo la cortesia di dire che è andato al bar, dove vengono per fare i bottiglie e i cornetti, così va bene in casa. Come si fa il cornetto in casa? No, dove vedo quel macchinario che tu pompi e tu mi sbatti la crema delle cornette. Ma è una specie di erogatore, praticamente lo attaccano, levano il tappo del barattolo della marmellata, no? E là c'è una specie di tappo che si adatta, lo stringi, e poi c'è l'erogatore, tipo il sapone con l'erogatore che usi la mattina per lavarti, no? Schiacci e c'è un beccuccio lungo, lo infili dentro il cornetto, il croissant, lo chiami come vuoi, e praticamente ci pompi dentro la marmellata o la cioccolata, quello che vuoi. Sì, ho capito come è fatto, però dov'è che le vendono questi così qua? Dai, perché con un sacco a posto non va bene, ti viene con un sacchetto. Avete parlato in due, un attimo che ho capito soltanto a nessuno. Dai che stava parlando di una cosa molto interessante, Silvia, mi è dimenticato, scusate. Col sacco a pozzi, col sacchetto si riempiono quelli lì, non c'è bisogno del macchinario. E quindi Natali cosa mi proponi tu? Col sacco a pozzi. Cazzo prendi e ci infili il beccuccio e schiacci. e si riempie il croissant. Ho capito, quello c'è il pasticcere che metto la crema e tata e schiaccia, giusto? E allora il sacchetto, il macchinario costa un sacco di soldi quello lì, lo santuffo. Ma da lì, quello devi schiacciare, poi devi lavare quando è finito, poi ce la fai due pompatine, ta-ta-ta-ta, e lo puoi caricare quattro poi giù, più veloce. Ma lo santuffo costa, e poi quando vuole lavato lo devi rimontare su altro. Ma è come dici tu. Con una siringa di quelle grosse. Ma mangiate roba dolce che fa male, che si gonfia il culo dopo. E ti sono detto Manuele, Che si gonfia il culetto dopo. Tu c'è che dimagrire che pensa che è troppo. Guarda, stavo deperito io, Torino. E infatti, ci vedi, sento di zecchini, ma io che pensi, pensa un po'. E a pensare, quando l'ho conosciuto io era fino fino Manuele. Cazzo, ma lo sai quanto era magro? Questa cosa è così. Lo vedi adesso, è morto di buco. E me lo posso immaginare. Ma sarà grosso, sì, Manuele. E se no, non era diventato grosso, lo fradetto. Lo stesso era magro come era lui. E da poi è diventato un bisonte. Comunque ce l'ha distribuito bene, pesce, grazie a Dio. Perché non si nota tutto questo cicciotto che c'ha, però dalle marre si vede fare il buco, avanti Gianni. Ma non è un'altra con la foto di verità, si vista. Non c'è più religione già. È bello che lui ci ha dato il magazzino di lasti. Lo vedi chi se ne può fare in casa di là. Grazie Carlo. Questo dove lo trovo? Su Amazon 6,25 euro. Il barattolo non è compreso, però c'è il tappo col buco e l'erogatore. Poi tu sotto puoi mettere il barattolo di Nutella, il miele, la marmellata, qualsiasi cosa. Dai due o tre piatte e riempi. Ho capito, sì, il barattolo di quelli già ce l'ho, perché vedo il tappo che lo conosco, lo zappi. L'avevo preso da Diaz, l'avevo preso quel barattolo là. Meremeda, allora ordiniamo. Se non ci metti la bocca sotto e punti. No, allora siamo netto già, Hai visto quanto sono morito in Atalina, eh? Noi di mangiarne, ma a me mi pare che tu sei peggio. No. Poi sono capito che io abito in campagna, così non mi crede nessuno. Già lo so che abiti in campagna, tu, per quello è che lo fai di nascosto. È bello Natalì che ti manda anche il croissant da vedere, capisci? A me per uno mi mandava roba di magna. Oh Carlo, dimmi Tony. E dove ci dà che ce l'ha fatto il BG, c'è scritto? Quella l'ho fatta Redcliffe nel Queensland in Australia, perché praticamente i PGs sono di Redcliffe ed è la cittadina dove ha studiato mia moglie per un anno tanti anni fa, e ci siamo tornati, sarà 8 anni fa ci sono stato io in Australia per un mese intero, e quindi siamo andati a vedere dove era la sua scuola, e quindi i PGs hanno una via dedicata, gli hanno fatto il monumento, capito? E quindi là mai avevo fatto una foto. Ho capito, bello, bello lavoro qua. Cioè, ma è vero che lì è in Australia come arriva all'aeroporto? Ti controllano anche i piedi che c'hai dietro, tutto. No, non è vero, quello lo fanno in quelle trasmissioni, security, airport. Sì, è vero che fanno i controlli, ma controllano soprattutto i paesi asiatici, eccetera, che portano di tutto e di più. Io quando ci sono stato, adesso ho mia figlia là, però è nello stato di Victoria, nel sud dell'Australia, e rientra a luglio. E comunque, praticamente, quando tu fai il permesso d'ingresso, devi avere il passaporto valido, mandi la fotocopia del passaporto, tramite ambasciata lo puoi fare o consolato, oppure anche la procedura online, basta entrare su Immigration Australia e ti fanno il permesso d'ingresso per fini turistici. Poi prima del viaggio praticamente ti danno una modulistica, capito? Te la inviano via mail, dove tu devi scrivere tutto quello che stai portando. Basta che tu non porti cibi, derivati di cose vegetali, sementi, cose del genere, tu sei a posto. Poi per il resto puoi portare tutto, capito? A me non mi hanno controllato niente, a me e ai familiari. E ti danno la modulistica anche dentro l'aereo, tu la devi compilare, la dai al personale di bordo e loro la consegnano già subito, come scendono consegnano tutte queste liste. La dogana le controlla velocemente, capito? Quando tu fai il controllo d'ingresso del passaporto, loro sanno già, hanno già lì la tua dichiarazione di quello che stai portando e che non stai portando, capito? Funziona così. Però se tu dichiari tutto quello che hai è regolare, passi liscio come l'olio. Capito. Ma è vero che la carne in canguro è buona. Guarda che sono un'organizzazione, le nostre allucinate. Ci sono altre carni migliori, a dire la verità, non è che mi ha entusiasmato. Rimane anche un pochettino duretta, capito? Invece l'hanno buona quella di manzo. Gianni, comunque sì, è vero, perché l'ho visto anche la televisione. E fanno bene comunque, dai. Le carne, le latticine, i formaggi, eccetera, eccetera. Insomma, invece non c'ho niente. Mi toglie un casino di roba che si incazza, carne, chita che dà. Questo non è cibo, chita cos'è? Non è roba magna. Per carità, ne vedo tante. Io lo guardo con lui perché mi piace quel programma. Di solito alle 3 del mattino come sveglio, c'ho sonno, metto la televisione e mi guardo quel programma lì. Ok, dai. Adesso sappiamo molte cose, anche del barattolo, da Martella, da chi? Io guardo Alfa e Fedelza. Tu guardi anche Fantasmi? Sì, la notte. Vedi, comunque fa una cosa Gianni, dato che tu sei molto sbrigativo nelle cose, fare, inviare, far una... Fai una bella richiesta invece, di mandare i frittelloni con la marmellata. Non ho capito nulla. Di mandare i frittelloni con la marmellata. E io ho visto tre croissant qua. E vabbè, io lo guardo, Urbex, Daniele Urbex. Natalino è sparito. Sto andando a fare qualcosa da mettere sotto i denti, vi ascolto. Io c'è che mi aprite qualche nutria invece e ci fai il croissant con la marmellata. Natalino adesso è con sacca a foce riempiendo croissant, Tony. Natalino, un giustizio ne sa. Oh, yeah. Fate tutti i santerelli, poi quando c'è di rasura non vi si può fidare un attimo. Non le faccio queste cose io. Io ho deciso che dopo ne faccio due spaghetti ai frutti di mare. Quelli sono buoni e anche leggeri, dai. Gianni, comunque se sei all'ascolto, quando hai tempo e con calma, mandami la marca e il modello di quella radio che mi hai fatto vedere, capito? Perché anch'io ero intenzionato a prendermene uno di ricevitore. Mi sa che marca non è. Io sono andato e ho scritto ricevitori HF, VHF, CB eccetera, e mi ha mandato quello lì. Mi ha mandato quello. Sì, è solo HF quello. No, fa V. Sì, quindi fa un po' di tutto, perché ci sono quelli che vanno da 0 a 1300 MHz, qualcosa del genere. Ma io guarda, non è che ne abbiamo stati passati, qualche cosa mi ascolto ogni tanto, quando non ce ne sono qua. Ma non ho molta pazienza, sinceramente, non è più come prima che stavo attaccato. Ogni tanto ascolto, dai. E adesso mi è arrivato oggi, quello lì l'ho messo in moto oggi. Mi sembra interessante, però, dai. Già, poi mi dirai nei prossimi giorni quando avrai la possibilità di usarlo meglio. Sì, ma ho visto che prende bene anche con l'antenna che c'è sul tetto. Infatti stavo per comprarmi un'antenna, però poi ho deciso di non prenderla, tanto magari mi prendi quelle basi con la base magnetica e ricevono più male di questo. Infatti, magari si riceve comunque. Sì, magari su 40 metri di sicuro, le altre non le ho appurati. Su 40 metri me la riceve benissimo, anche 9,20 segnali mi arriva, 9,20, 9,30. Allora voglia, la ricezione è buona, se ti arrivano così forti già va bene. Sì, poi è touch screen, capito? Dopo già me lo guardo, dai, già me lo cerco stanotte se ho tempo, perché domani rientro di mattina al lavoro, devo essere a lavoro alle 6, 6:14 domani. niente, quindi me ne andrò a letto anche un po' prestino, va. Adesso rimango un altro pochino e niente, fino alle 7:30 facciamo le 4 chiacchiere, vai Tonino. Antoni, Magnesi, Bobo, avanti, Manuel, fittendi sì, tutti fuori sono, Natalino sta preparando a mangiare, Tonino chissà cos'è Fede, Manuel lo stesso, rimaniamo io e tu Carlo, dai avanti. Ma stavo guardando quella radio tua, vedo che davanti c'ha, sulla destra c'ha il manopolone eccetera, sulla sinistra c'ha roba scritta e però non riesco, perché mi hai mandato il video ad ingrandirla quella, dai, poi già me lo cerco meglio. Comunque sembra bellino come è fatto. E se non sbaglio da sopra esce l'audio, ovvero dove c'è quel tondo bucherellato. Esatto, esatto, sì. Poi dietro c'è l'accensione, on off, poi c'è AM, FM, USB. Capito, c'è il tasto dietro. È bellino, si sente anche bene. È veramente un bellissimo apparecchio, a me piace, è molto ridotto, non so, marrasoni da mettere, lo metti da qualsiasi parte quello. Ah, una cosa ti devo dire, se lo prendi preparati o lo carichi col computer o ti devi mettere un caricabatterie tipo quello del telefono, io ne avevo uno a casa per fortuna e l'ho messo per caricarlo. E perché non ha diciamo la presa diretta 220 o 12 volt? No, è di quelli che hanno le batterie, è praticamente come il telefono, tu ti mandano il cavo con l'attacco USB, quello piccolo e quello grande, e tu devi metterci il caricabatterie, dai, che è quello del telefono, dai, io ho messo uno di quelli del telefono, va benissimo. Guarda, giù in garage ne ho un cassetto pieno di caricabatteria, di tutti i tipi ne ho, non sarà quello il problema. E adesso vedo come me lo guardo su internet. Non c'è molta spiegazione, controlla che ci sono svariati prezzi, non prendere quel primo che capita, perché se ce n'è che lo fanno pagare 116 euro, ce n'è che lo fanno pagare 78 euro, ce n'è di tutti i tipi. Ho capito, ma è roba del mercato asiatico, no? Ma di Hong Kong. Ho capito, ma lì già li fanno, che funzionano bene, dai, fanno anche delle cose buone. E infatti non è che ci ha messo poco a arrivare, io l'ho ordinato prima di Natale e mi è arrivato adesso, vabbè, comunque, tanto non è che avessi questa grande fretta di averlo. Ascolta, quando l'hai ricevuto da Zio Canali ti hanno fatto pagare oppure l'hai preso tramite eBay o qualche cosa del genere, dove se acquisti con in quei siti lì non paghi da Zio Canali? Sì, tramite eBay l'ho acquistato. Ok, allora dovrebbe essere esente, capito, dai dazi, perché pagano già loro, ho capito, quelle cose là. Sì, ma mi ha entusiasmato molto. C'è anche l'attacco per metterci le cuffie dietro, se ti vuoi mettere le cuffie, ti puoi mettere le cuffie per ascoltare. Più che altro è interessante il fatto che abbia il touch, che abbia delle batterie per la ricarica, quindi lo puoi spostare dove vuoi tu, capito, anche per fare ascolto e magari metterci anche un antennino interno anche dentro casa, oppure lo colleghi all'antenna esterna direttamente. Allora lui di per sé c'ha un antennino attaccato che lo puoi smontare e ci puoi attaccare quello che vuoi. C'ha un antennino che riceve, sì, ma non è la ricezione che c'ha con l'antenna che io sto usando dal tetto, capito? Però si sente lo stesso. L'attacco BNC dietro. C'ha quello, è un attacco piccolo, io ho dovuto mettere un riduttore, mi sa che è femmina, tu devi mettere quello maschio a vite. Capito, quello tipo baionetta, dai, il BNC dovrebbe essere. No, non è baionetta, è avvitatura. Ho capito, sì, allora è l'altro, ho capito, sì, ma già si trovano, ne ho anche di quelle riduzioni di tutti i tipi, non è un problema. E l'antenna che ti danno, quella piccolina in dotazione, di quelle metalliche, no? Tipo stilo, quelle che sollevi poi ed è snodata, immagino. Esatto. pesante, quella telescopica che, oddio, non è che rega molto, è di quelle telescopiche, c'è la tacqua L, a volte scende, bisogna stringerla e farla, comunque, anche con quella riceve, perché ho provato e si sentiva, si sente più basso, ma si sente, ma con l'antenna del tetto, ti dico, segnali 9.20 mi arrivava, 9.25, 9.30 mi sono arrivati, si sentiva bene, dai. Me l'ho ascoltata dopo pranzo, perché mi è arrivata verso l'una, così l'una e mezza, e che prima non riuscivo a accendere, ma come cavolo si accende questa cosa, non c'è nulla per accendere, io mi stavo aspettando che ci fosse scritto on off o che ci fosse il simbolo dell'accensione, nulla, e dietro, capito, c'è un interruttore dietro, capito, e vabbè, le cose nuove sono così, prima di scoprire il funzionamento ci vuole un pochettino. Ma solo la croce prende? C'è solo praticamente un depriano della radio con scritto i funzionamenti, no, però non c'è nulla spiegato, diciamo, non ci sono proprio le istruzioni, capito? Solo la VHS prende già. VU. Anche le VRU prende. Mi sa di sì. Mi pare strano. Secondario, perché sai che è impossibile che diventi possibile. Vabbè, guarda un po' se le prende. E me lo farai sapere. Quanto è costa? Non è tan caro, ce ne sono di svariati prezzi. Secondo dove lo compri lo paghi di più. Ti devi fare il giro e controllare dove costa meno. Forse su Amazon, guarda, che fanno prezzi migliori. Io l'ho preso da eBay, però l'ho pagato di più. Scusate, ma ero al telefono. Non fa niente, Tony, lo sappiamo che tocca, sarà piccioncino. Sì, ma non lo stavo mangiando, non ti preoccupare, tranquillo. Cosa? Io non stavo mica mangiando. Ero al telefono con Monica. E faccio, certo, questo era piccioncino. Era carino, sta mangiando anche lui, vabbè. Ancora no. Ancora no. Quindi già c'è ruota, dai. Va bene. Dunque Natale Gianni già lo proverà in questi giorni, ci farà sapere cosa scopre. E infatti. Ma controlliamo. Anche perché stasera poco tempo ha avuto. Io ho sentito che si sentiva bene, l'ho lasciato lì, mi ha ascoltato tutto il discorso che stavano facendo. Anche perché il prezzo comunque è anche interessante, non è tantissimo, se intorno ai 100-120 va anche bene, se funziona bene non è eccessivo il costo. Ma l'hai trovato? Aspetta che vado a vedere se l'ho trovato. E dopo me lo guardo, adesso c'ho il telefono, l'ho appoggiato sul tavolo. Ma ti ha parlato sempre di quel genitore? Di Tony, esatto. Capito. Vabbè, quando ci sono nuove strumentazioni siamo un po' tutti interessati e curiosi, dai, tutto lì. Però Gianni mi ha detto che appunto l'ha ricevuto tarda mattinata, quindi non ha avuto neanche modo di provarlo bene, dai, nei prossimi giorni ci farà sapere come va anche in altre bande. E domani lo vedo al vivo, perché domani c'è, ci devo andare da lui. Se ci riesco di mattina, poi domani c'era, non vedo lui lì, però che domani non so se è lui impegnato, perché devo aggiustare qualcosa. E così lo vedo. Bene, mi anche Natalino è entrato perché ci stava ascoltando e voleva sapere, insomma, com'era il costo, però dovrebbe essere dai 90 ai 110-120 massimo, dipende dal sito. Lo so. E mi fitti così. No, già bene, io adesso probabilmente ho altre cose per attesa, ma Carlo, adesso per il momento no, ci sto pensando di ordinare, però poi vediamo più là. Sì, ma soprattutto se si può collegare all'antenna che utilizziamo noi e riceve, già è buono, dai, perché almeno non stai lì a mettere altre antenne, tanto è solo per la ricezione, quindi già va bene. Oh Gianni. Allora Carlo, si chiama la TS20. TS? TS20? Ah, TSA come Australia. Ah, adesso ho capito. ATS20. Sì. sì, dopo me lo cerco, dai. ADP, aziende, trasporti pubblici. Ah già, aziende, trasporti pubblici. Aspetta, se non è quella. Gianni. Oh, yeah. Dai, domani ti do un'altra cosa, ti porto, dai. Ho trovato questo qua, TS20, 36 qualche cosa viene in offerta, se non mi chiedesse Carlo. Sì, stavo guardando su Amazon, ce ne sono diversi, ho capito, ATS20, ATS25, uno costa 72, un altro 89,09, sono sì con l'antenna snodata, quella telescopica posteriore, però quello col display grande come il tuo non lo vedo, adesso cerco ancora, dai, poi ti faccio sapere quando lo trovo. Io ho pagato 165. Sicuramente è un altro modello però rispetto a questi che sto guardando. Sì, è quello superiore. Esatto, mi fa vedere un video che mi sa che è quello come il tuo, però è su YouTube, ma io voglio vedere le caratteristiche, capito, le specifiche tecniche pure, per vedere cosa copre di banda eccetera. Io ho trovato questo a TS20 35,37 euro. Ma c'è la TS20-25, sono diversi modelli, io ho preso il modello, diciamo quello che costa di più, da 160 e passano poi. Sì, ma tu cos'è? ATS che cosa? Non me lo ricordo che cos'è, non c'è scritto, forse il 25. Dura 299 euro, insomma. C'è anche il mio amico, 119 euro, ricevitore, UDE. Ma quello è l'ultimo che c'era, se non lo sai usare quello lì. E anche il CB quindi prende tutto ciò qua. E io non lo so usare, è nuovo il mio. Infatti va meno bene che non me lo so usare. Se lo vedi ti prendi quello che ho preso io, così almeno è facile da usare. C'erano anche l'altro ricevitore più grande, cioè se ne è morto. Io questo nuovo piccolino lo devo prendere. Così, ho pagato 300 metri alla CBC, ma anche 80 euro lo do. Prende il listo di anche alla radio MFM. E mio ho anche quello a prendere, lo so. Tutto. Ma quello che si prendeva prima non si prende più. Lo so, io ho un tempo, tantissimo tempo fa, avevo un Midland portatile. Vince trasmettitore da 0 a 2 GHz, sentivo tutto, ma ciò cosa vuol dire tutto? Tutto, anche i telefonini. Anche io con lo UPTL, sentivo tutti i telefonini, i fidanzati che si telefonavano e parlavano di cose proibite. Ehi, c'è la fine ascolto con l'abbonamentore alla verde, Torre Rai. Che non si trova la telefonata e c'era questa qua per correre, non faccio il negozio che c'è mio marito oggi, lo sai che a me mi piacciono due a volta, ci vede tuttora. Sì, prima quando c'erano gli StarTAC, i telefoni che sembravano cabine telefoniche, quelli lì li prendevano la frequenza. Eia. Quando c'avevi un ricettore da 0 a 2 GHz è un bene, poi di tutto. Cosa che lo prendevo, polizia, finanza, carabinieri, pompieri, vigili urbani, tutto. Niente, poi non avevo visto il zio, fratello Piero Drago, che lui parlava paracchino, cazzo quindi me lo vedo, ma me non aveva venuto a vederlo, che era di Chiaramonte, 600.000 lire, non dico parla italiano, io ho pagato 600.000 lire, e avevo io 600.000 lire. Ma la faccia da, anche la penale ho comprato e quindi gliel'ho venduto. Neanche a fare la posta dopo neanche un mese c'ero, poi è stato all'amico mio poliziotto, voleva perché trovava anche le cimici addirittura, dove il ricevitore là, il ricevitore. E non so come è successo, gli era rovinato. E quindi la palla di non mi ha fatto più paese. A me lo UPTL me l'ha dato Natalino, avevamo fatto uno scambio, mi pare. E quello UPTL prendeva tutto, le bande laterali, tutto canto. C'aveva tutto, prendeva ogni cosa che si muoveva la prendeva. prendevano le guardie giurate, tutte queste cose qua. Sentivano tutto, quando parlavano con le radio nei cantieri, prendeva tutto quanto. Poi mettevo lo scanner e girava da solo lui. Dove trovava gente a parlare si fermava. Comunque, allora, eccolo qua, il mio, uguale identico. Penso che sia da 0 a 30. Dunque, disponibilità immediata. Eccolo qua. 119 la Madonna, 120 euro. Un idem, laser, cimentore e scanner. Io non lo so, non funzionare che quasi no. E mi ha due però messo nell'armadio a nuova, anche non lo so come fa funzionare. Scappa. Avanti, Carlo. Sì, sì, stavo guardando anche un altro che mi hanno mandato interessante di ricevitore. Io devo fare un attimo di bianco perché devo uscire a fare una commissione prima delle 8, prima che chiudano i negozi, e quindi già lascio acceso, appena rientro, se ci siete ancora già mi faccio sentire. Comunque vi saluto Natalino, se è ancora in ascolto, Gianni, Tonino, se c'è Emanuele, non lo so chi, tutti quelli che sono in ascolto. Devo spostarmi un po' in fretta, dai, poi ci sentiamo. Ok, ciao Carlo, vai. Io fin quando ci sono, cioè no, è già 19:23 comunque. Tra poco devo fare anche la carne per i cagnolini. In tal caso ci sentiamo, saluto anche da parte mia. Dai, ci risentiamo Carlo, avanti già. Ciao Carlo, dai, buone compere. Ci sentiamo dopo. Avanti. Natalino, finita di mangiare. Ma come viene a mangiare quello lì? Natalino, piano. Ha già appena cominciato. Vero mi? Soli ci hanno lasciato, Tony. E allora, se c'è meno soli per accompagnarsi, però Natalino si fa così. Ci lasci soli per mangiare, capite? E poi ci chiediamo noi mangioni. Almeno noi aspettiamo, non mangiamo subito. Invece tu ti sazi così e noi a bocca aperta. Dunque, questo qua già, che costa ben 36,40, è più o meno uguale al tuo. Ah, oh, è il modello diverso. Ci sono dei modelli base e dei modelli che fanno più cose, capito? Io ho preso quello superiore, però non mi ricordo che modello sia, è quello superiore a quello e tutti gli altri, dai. Quello che costa di più. Un sacco di cose, Anna, Pro, DFO, ACC, Mango, IW, Menù, Mode, Set, Present, Lutte e Volume. C'è FM, ma c'è 95.5. No. C'è lo Smith, tutto quanto. È un pack simile, dai. Sì, il quadro è uguale. La parte anteriore è uguale, però fanno diverse cose, vanno su diverse frequenze, capito? E comunque il generale frequenze c'è, da quanto parte il tuo? Da 0,30? Mi sa di sì. Vabbè, anche quello che c'ho io, dai. Da 0,30 praticamente. Sì, vabbè, a me quello non mi piace. Perché... non so, è piccolino, sembra baracchino sembra. Quale? Quello che c'ho io. Quello, il mio sa di una stazione base, però nello stesso tempo è compatto, capito? Allora, te lo dico subito. Se tu vai su Amazon e scorri su ATS20, poi continua a camminare su tutti gli apparati sono, e ti fermi a quello che ho io, un idem, 119,99, e vedi quello che ho io. Che modello è? E cos'è so? C'è scritto, aspetta che apro la cosa. Allora, eccolo qua. Qua c'è quando te lo mandano, tutto quanto, disponibilità immediata, confezione regalo, aggiungi, prezzo, base, disponibile prezzo più basso, prezzo degli altri, già non mi scritto, ho già, sto cercando tutto quanto però, non riesco a leggerlo. Allora, ho sbagliato pagina, consegna gratuita, oppure consegna errata. pubblicità, edizione, lo facciamo regalo, accessori, prezzo più basso, questo è addirittura 113 euro. Sai che non c'è scritto che modello è? Strano, eh. Allora, è tutto nero, a destra c'è il frequenzimetro, col canale eccetera. C'è una letta che si alza, che appoggia per terra per tenerlo sollevato, che c'è i cosi rossi. Già non c'è da sbagliare, è così lo vedi. Come il mio, Che UBC, la però non me lamento. Comunque è quello lì, quello che c'ho io. Natali cos'è? Da 0,30 quello lì? No, quello lì fa le balle alte solo. PNR, ascolti tutto quelle robe lì. La radio aeronautica, biglia. Sì, perché Emanuele mi aveva sintonizzato sul 10, il baracchino pure per te. Sì, signore, la marina, tutto. Però le HF non le prende. Io ho chiesto un ricevitore. Poi, vabbè. Non l'ho mai usato a me. Poi la macchina che è un casino, è complicato. Lo so. E poi ne ho un altro più un po' vecchiotto, enorme, grande, bello. E c'è un sacco di tasti, frequenzia, tutto. Gianni. Tutto che mi ha avviato tutto era bello, visto Gustavo Amburo, quello era bello veramente. Che cosa? Il ricevitore. Ma quale? Quello che mi ha dato Nazzalino, un bel tempo fa. Non lo so. Non so ma cosa se ne ricorda, Natali, te lo ricordi quel ricevitore Jupitero che mi hai dato? E via, quello bisogna tutti. Tutto quanto. Quello prendeva tutto sì. Adesso io so chi ce l'ha, quello mio, perché io l'avevo dato a una persona e quindi so chi ce l'ha. Ah, quindi te l'hai venduto? Sì, ma se l'ha bruciato l'alimentatore e l'avevo dato sotto alimentatore. A me che non lo metto all'esterno, non ci poteva mettere. No, era esterno l'alimentatore, era tipo quelli del telefonino così, però ci aveva il cavo diretto senza avere attacco ai semi. Capito. E quello ce l'ho anch'io così, quello grande che avevo comprato da poco, da quel tipo di produttore. Ma è bello lo stesso, trovava la tacca da porto, me l'ha mandato. Ma andavano a vedere come. Avete dentro la cassola, deve essere dentro la macchina, perché qui non la vedo. Ma è grande. È grande, comunque state le base. E se trovo, dove l'ho messo, poi faccio la porta e te la mando. No, pensavo che se ci sono te lo porto a casa. No, ho detto ti porto a casa un'altra cosa. Che ti regalo una cosa. Torna a casa lì, si ritinti. Natale, è finito di mandigare. E lascio mangiare con calma. Ma tu davanti la ci sei già, o devi fare cosa? No, già ci sono. Non c'è mattinata, vai. Ma se piove, quella cosa non te la posso fare perché viene male. Cappa! Perché mi bagno, cavolo! Ti bagni! Cosa devi prendere? La lattuga che hai piantato? È l'antenna che c'è piantata fuori. C'ha 3 mini grappini e ti va bene per il cimitore. Ma è grande! No, che piccolina, cosa grande! È più grande quell'altra di scuola, è fatto un gotto. Io vorrei, non sai che cosa, un'antenna piccolina da mettere nel terrazzo, così, capito? Ti va bene pure quella che mi ha regalato Claudio a me, una base magnetica piccolina. Prova a portarmela a vedere se funziona bene e poi te la ritorno se ti serve. Beh, già, se vuoi quella non so, ci mettiamo d'accordo, mi dai 4-5 baracchini. Allora fa vedere quella Diamond, che sono le migliori, le Diamond costano 29 euro più 10 euro di spedizione, 30 euro in tutto. Copre. Ce l'ha fatto, domani la proviamo, se va bene. Ma c'è il PL di quello lì. No, ci vuole il riduttore. E tu ce l'hai? Sì. Tu l'hai tracciato così. Io ne ho tanti di riduttori, ma non li do mai a nessuno perché non si trovano più. Ma è schiccio, raga. Dai Jack, comunque io a me mi sposto che faccio la carne ai miei figli piccolini. Che hanno famoso, poverini. Se la colpa non è più piana. Ok, dai. sentiamo, dammi mele, ciao la tarina che stai mangiando, sei finito, per così già ne fa compagnia, e poi capo rientrerà anche lui. Vai, a dopo, ciao ciao, se ci siete più tardi dopo cena, ok? Ciao ciao. Ciao, che ore sono? 19:34. Ah dai, sto chiudendo anch'io, dai. Ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao ciao, ciao, sto bene. E mi trovi l'ascoltore, ciao a Tarino, ciao Carlo. Ciao ciao a tutti e due, alle prossime, dai. Ciao Natali, ci sentiamo. Ciao ciao.